è in Ariete in questo momento e sta passando anche l'aereo. Noi volevamo farlo del tutto senza microfono, essendo in un casale, no? In un posto abbastanza diverso, no? Da quello che è la metropoli. Pensavamo che era bellissimo rimanere, esatto, chiedervi di fare silenzio e tutte queste cose qua, e lo volevamo fare senza microfono. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che era un'impresa impossibile e che ci dobbiamo adattare a quelli che sono i tempi, quindi è inutile andare contro quello che è il passaggio. Allora, veniamo da un Giove in Ariete praticamente si comportava, che bella sta cosa, mi butto con grandissimo entusiasmo nelle nuove cose da fare, ok? Buttarsi senza paragatude. Per quanto riguarda Giove in Toro, invece, è un facciamo queste cose, ma le dobbiamo fare che poi hanno un ritorno, ok? Nel senso, non ci butteremo più a capofitto in qualsiasi cosa. Abbiamo visto che negli ultimi anni ci sono stati grandi cambiamenti. L'ultimo proprio dopo aver visto. Questo fa parte comunque della scena, non si sa perché, come è un discorso di leve, un discorso grande, Bibi. Vabbè, comunque qualcosa ci indica, dice, non me lo levate, allora io me butto giù. Allora, cambieremo modalità, non ci butteremo più a capofitto, perché nell'ultimo anno, se andiamo a vedere quello che è successo, tanti di noi hanno cominciato ad andare verso un cambiamento e tutti entusiasti ci siamo buttati verso queste nuove cose. Però queste nuove cose non è che sono andate proprio benissimo, e diciamo che in questo momento il cielo in generale ci sta dando un grande sentore di instabilità, ok? Quindi tutti che vogliamo andare verso questo cambiamento, voglio lasciare sto lavoro, voglio lasciare sta persona, voglio lasciare sta casa, voglio lasciare sto gruppo, voglio cominciare nuove cose, però ogni volta che ci provo, cioè, succede sempre qualche cosa e dice, beh, oddio, forse è meglio che sto buono e che penso bene a quello che faccio. Proprio perché effettivamente siamo in un momento di grande cambiamento, ma i tempi non sono propriamente maturi. Considerate che nel cielo in questi giorni abbiamo un Mercurio retrogrado fino al 15, quindi fino al 15 abbiamo Mercurio retrogrado e poi il 16 abbiamo Giove che passa in Toro, quindi stiamo vedendo che effettivamente siamo in grandissimi cambiamenti. Questa settimana è bella turbolenta perché ci sono tanti pianeti che si spostano, quindi aspettatevi. Non so se avete notato gli imprevisti che vi sono capitati questi giorni, a me mi è successo veramente di tutto, quindi sono già contenta di essere qua, mi si è fermato lo scooter, no? Tutta una serie di cose in cui dici oddio, ok, quindi faccio questo, no? Ti arriva la telefonata, sono sotto casa, ti vengo a trovare, no? Tutti questi cambiamenti, perché stiamo andando verso questo tipo di cambiamenti. Però la tematica più importante a livello collettivo, regà, è questa mancanza di sicurezza con quest'economia, ok? Se ne siamo accorti, ok? Allora, abbiamo un Urano in Toro, che è il pianeta che ci ha portato l'elettricità, che ci sta dicendo che stiamo avendo questi cambiamenti proprio a livello di economia e di sicurezza, e anche per quanto riguarda l'assestamento della Terra. Quindi Urano, per farvi capire, è il pianeta del cambiamento, ok? Toro è il pianeta che ci Toro è il segno che ci ricorda effettivamente che simbologia, quindi la madre terra. Vediamo che la terra si sta assestando, ci sono tutta una serie di terremoti anche qua in Italia, perché comunque la terra è un essere vivente e in questo momento, diciamo, sta cercando di assestare le sue cose, e soprattutto stiamo andando verso questo cambiamento dopo anni in cui ci sono state tutta una serie di restrizioni, e noi con queste restrizioni siamo cambiati, ci rendiamo conto tutti quanti che non pensiamo più quello che era 2 anni precedentemente, ok? Quindi all'inizio abbiamo detto, ok, cambiamo, dai, mi butto su qualsiasi cosa, ci siamo schiantati al suolo E adesso ci siamo rialzate e abbiamo detto ok, cominceremo a fare altre cose, ma adesso ci penso un attimino. Ok, quindi se faccio questa cosa prima di buttarmi a capofitto, quanto tempo mi impegna? Quanti soldi mi costa? Prima di quanti soldi guadagno, devo pensare a quanti soldi mi costa. Ok, quindi diciamo che nella simbologia Toro è molto legata a quello che è il denaro, ma soprattutto a tutto ciò che ha valore. Ok, quindi Giove ci spingerà a portare avanti le cose che effettivamente funzionano, mentre Giove in Ariete dice vabbè io ci provo e non me ne frega niente di come andranno le cose. Diciamo che dopo una certa mazzolata sulle gengive adesso ci troviamo a dire bah, effettivamente adesso portiamo avanti quello che ha veramente valore. E oggi andiamo a scoprire questo pianeta effettivamente dove ci andrà a toccare, perché sapere dove è Giove ci aiuta a capire. Perché? Perché Giove è l'espansione, è l'ottimismo, è l'abbondanza. Nell'astrologia classica veniva visto come il pianeta della fortuna, perché quando ti piglia bene praticamente ci stanno, avete visto quelli che vincono all'otto? Ecco, magari hanno un Giove in congiunzione che funziona bene sempre se ce l'hai messo bene per tema Natale, eh? Perché ci sono delle persone che nascono fortunate e delle persone che nascono sfortunate, ognuno ha il suo percorso, bisogna capire quello che abbiamo fatto prima, non ci interessa, già dobbiamo capire che stiamo a fare qua, ok? Quindi procuriamoci prima di tutto il presente. Esatto, quindi come diciamo, questo Giove espande il settore dove si troverà e noi questa sera andremo a scoprire, allora principalmente in base all'ascendente, quindi chissà dov'è l'ascendente è sicuramente più avvantaggiato. Se non sapete dove avete l'ascendente, abbiamo capito, è il caso di risolvere questo grande problema, ok? Dopodiché lo potete guardare sul sole, ok? Perché quando facciamo le previsioni astrologiche mettiamo il sole come se fosse l'ascendente. So cose tecniche che vi risparmio, voglio cambiare la luna perché c'è un colore troppo freddo. Rossa? Rossa, chiaro? Sembra troppo Marte. Verde, verde, verde speranza. Amo verde speranza al momento. Ho perso il telecomando, di solito cambia da sola, invece oggi è tutto manuale, abbiamo detto che siamo nel 1400, 1500, 1700 è stato fatto sto casale. Subito mi hanno detto, oh guarda, è del 1700. Comunque, in ogni caso, a precisazione, poi dicono che i vergini rompono, perché gli altri segni no. Comunque, allora, Giove in Toro, dove ho l'ottimismo? Allora, ci sono due possibilità che noi ci possiamo vivere Giove. Abbiamo detto che la fortuna è l'espansione e l'ottimismo. Giove praticamente rappresenta l'andare oltre, non esistono i confini, è un pianeta che non si ferma, che dice sempre di sì, perché ha bisogno di conoscere sempre di più. Quindi è proprio il pianeta legato alla conoscenza e ai viaggi, a conoscere tutto quello che non si conosce. Tant'è vero che a livello astronomico il pianeta ci ha bello piantato un bell'occhio, si vede l'occhio di Giove. Allora, st'occhio di Giove, vediamo dove ci andrà a colpire in tutto questo anno. Allora, farà la sua fase retrograda, però rimarrà sempre nello stesso segno, una cosa che non avveniva negli ultimi 2-3 anni. Allora, andiamo a vedere, allora di solito chiedo sempre quale segno, però in questo caso, visto che me la governo io, perché dobbiamo parlare no, di un pianeta che ha un seguito, poi cioè, almeno vi faccio capire un po', spero, come funziona l'astrologia. Quindi partiamo dalle persone del Toro, mi sembra il caso. Allora, no, allora, questo è un casale. Qui c'è la natura, c'è il giardino. E per parlare di un evento del genere non potevamo che trovare il posto adatto, ok? Perché al Toro gli piace quello che è la natura, quella che è la semplicità, quello che è il buon cibo, quindi ringraziamo la cucina, un applauso per la cucina. che sono quelli che si vanno al mazzo più di tutti, ok? E sono i primi che vanno riconosciuti, ma anche chi insomma vi accoglie, eccetera, eccetera. E qui abbiamo tutto il simbolismo toro, comunque. Allora, al toro gli piace mangiare, gli piace godere della vita. Ok, quindi questo giovane toro a tutti quanti ci spingerà a trovare delle sicurezze. Quindi attenzione, perché questa ricerca di sicurezza, in fondo, dentro di noi, nasconde un'insicurezza interiore. Quindi se io vado fuori a cercare delle sicurezze, perché dentro non mi sento sicura di me. Ok? Quindi innanzitutto attenzione, perché se noi cerchiamo la sicurezza negli ambienti esterni, soprattutto negli altri, regà, andiamo a finire male. Non so se avete visto quello che è successo col Dalai Lama, penso di sì, poi nessuno ne parla, è meglio che non ne parliamo, perché è veramente altamente squallido. Ma il discorso è che non ci possiamo attaccare a nessun'altra credenza, ma essendo grandi noi dobbiamo contare su quello che crediamo noi, e questo cielo ci sta chiedendo proprio di fare questo, quindi lavorare sulla ricchezza personale, riconoscere il proprio valore. Perché se io vado da un'amica, l'amica mi vedrà in un modo, mi vedrà stanca, quell'altra mi va dimagrita, quell'altra mi vede le gambe, quell'altro mi vede le tette, ok? Quindi se io sto a sentire tutti quanti sarà un grave problema, perché effettivamente mi guarderò allo specchio e potrei avere qualche problema. Quindi innanzitutto credere in noi è la cosa più importante. Il fatto di avere una credenza è fondamentale, ve lo dico, perché comunque Giove riguarda proprio quello che è un po' la religione e la spiritualità e quello che noi crediamo. Abbiamo visto che le dinamiche della religione stanno tremando, perché finalmente dobbiamo uscire da sta roba, e quindi dobbiamo andare verso questa credenza che è nostra, ok? Non so se vi è arrivato il messaggio, però dobbiamo più credere alla nostra vocina interiore piuttosto che ai giudizi dell'altri, se no stiamo sempre in balia di qualcun altro, ok? Dentro di noi ci sono almeno 10, 15, 10, 12, 20 personalità, ogni pianeta ha una personalità, ognuno di loro vuole dire qualcosa, però in mezzo a tutte quelle voci ce n'è una che sa veramente dove guidarci, e noi dobbiamo cercare di andare a capire qual è quella giusta. Quindi vabbè, insomma, ci facciamo un sacco di elucubrazioni mentali, questo è chiaro. Allora, andiamo a vedere Giove per il segno del toro. Allora, toro, dove siete? Toro è ascendente toro, perché l'ascendente toro... ci sta qualcuno ascendente toro? Non c'è un ascendente... sì, è l'ascendente toro. Allora, l'ascendente toro, ok, e sole in toro, ok, va bene sia per il sole che per l'ascendente. Sull'ascendente abbiamo la precisazione che sta in prima casa. Ora vi faccio un esempio: io sono un ascendente ariete a metà del segno, quindi ho ancora un Giove che mi passa tra la prima e la seconda casa. Per quanto riguarda, quindi ascoltatevi pure quello dell'ariete, quindi adesso cominciamo col toro, ma vi dovete sentire anche l'ultimo, così non ve nannate, la mettiamo così. Allora, toro e ascendente toro, sta arrivando Giove che è il pianeta della fortuna e dell'espansione. Questo vuol dire quando passa nella prima casa o sul sole, praticamente Giove ci porta una grandissima ventata di ottimismo. Se abbiamo passato un periodo oscuro, negativo, con tutta una serie di cose, quando arriva Giove la prima cosa che cambia è quello che noi sentiamo dentro. A un certo punto c'è una fiamma che si accende e che ci spinge ad agire, ok? Quindi a un certo punto c'è una sorta di risveglio, c'è un qualcosa in più, posso fare qualcosa di speciale. Allora, quando Giove passa in prima casa, parliamo dell'espansione della personalità. È per questo che dicevo ascendente toro, ma considerate anche chi è ascendente ariete, dal mezzo grado in poi già si becca questo Giove, quindi chi è ascendente ariete già l'ha sentito questo beneficio. Allora a me mi è capitato proprio che mi sono state fatte delle interviste e non ho chiesto niente. Giove in prima casa vuol dire espando la mia personalità, ma non che io mi metto lì e la espando, no, c'è qualcuno che chiama e praticamente ti presenta un po' al mondo. Oh mamma mia, che bella, che figa che sei in questo momento, e quindi vieni sbattuta, diciamo, davanti alla pubblica piazza. Attenzione, veniamo sbattuti davanti alla pubblica piazza, quindi bisogna stare attenti, perché Giove è un pianeta che non ha confini, quindi due sono le modalità. Allora, lo ricevo bene e quindi la mia personalità si espande, non faccio niente, vengo chiamata, ci sono delle persone che vengono da me e mi propongono delle cose che mi aiutano a crescere, ad espandermi, a farmi vedere, cambia la visione della vita, quindi è una profonda rinascita, considerate che è una bella botta di serotonina, insomma è come dire sono ubriaca ma non ho bevuto, e a volte non è nemmeno un'illusione. Quindi insomma, per chi ha il sole in Toro, che comunque è un... allora, da specificare che Giove in Toro ci sta in esaltazione, quindi il Toro, ve lo dico e ve lo ripeto se non l'avete capito, è un segno fortunato dalla nascita, lo dovete riconoscere voi. Ciao. Ok, quindi insomma questo pianeta in esaltazione passa sul vostro sole, congiunzione sole Giove vuol dire che effettivamente incontro altre persone, avvio dei nuovi progetti, magari faccio anche dei viaggi, cambio la mia visione della vita, è un momento di grandissimo accrescimento sia interiore che esteriore. Esteriore perché con Giove si ingrassa, ok? Se l'hai ricevuto bene, a volte Giove può essere, diciamo, anche se ce l'hai in prima casa non è detto che sia ricevuto bene, bisogna andare a vedere alcune specifiche. Ora c'è da specificare che quando non hai ricevuto bene Giove lo senti perché ti arriva sul fegato, ok? Una cosa, l'organo che proprio, esatto, io considerate che sono nata con Giove all'ascendente, adesso Giove che mi passa sull'ascendente e mi dice c'hai problemi al fegato, ok? Quindi devo bere e mangiare soltanto delle cose, ma proprio per andarci a lavorare, che ne so, è una cosa che c'ho dalla nascita, invece ripassa, l'hai capito o non l'hai capito? Che devi lavorare su sta cosa? Dipende da me come dipende da voi. Allora il Toro sicuramente in questo caso è il segno più fortunato di questo transito, perché un Giove in congiunzione è molto interessante, come abbiamo detto espande la personalità, avvicina delle persone che possono fungere da guida, oppure il Toro si mette a dare le lezioncine private all'altre, nel senso entra nel ruolo di guida, si sentono un po' ma sì. Ma il discorso più importante è che il Toro, una delle ferite più grandi che ha è proprio la mancanza di sicurezza in se stessi, quindi in questo periodo il Toro finalmente può andare a ricontattare la sua parte profonda e riconoscere il proprio valore, perché abbiamo detto che se cerca il valore nell'altri, stiamo bene freschi così, cerca il valore nella sicurezza, qui da Circeo addirittura, allora, se cerchiamo la sicurezza all'esterno, abbiamo visto che può arrivare un terremoto e toglierci tutto, è inutile sta a pensare che se abbiamo comprato 300 case avesse il lavoro fisso, arriva a bomba e se arriva a bomba, regà, no? Si attacca, se arriva il terremoto si attacchiamo, quindi non sono queste le sicurezze. E il discorso è che questo cielo ci sta richiamando proprio a questa cosa, non possiamo attaccarci alla sicurezza materiale perché questa ci può essere portata via. Giove in Toro ci dice dobbiamo riconoscere il nostro valore personale, cominciare a capire dove noi siamo bravi e dove noi valiamo, perché quello ha il vero prezzo. Se io sono una brava artigiana, faccio tutte queste collanine, però faccio l'impiegata alla posta, ok? Quindi mi prendo gli insulti dai giovani e comunque mi ascolto le vecchiette dei settantenni, poi fai delle bellissime collane e le regali perché non sei capace a valorizzarti, è ora che dai un valore alle tue collane e a canni e servizio di assistenza alle poste, ok? Perché io veramente grazie a chi lavora alle poste, a chi lavora ai supermercati, perché comunque fa un sostegno sociale gratuito, ok, con un stipendio minimo, però veramente esatto, grazie, insomma. Toro, è il momento di ritrovare la fiducia in se stessi e dare valore a tutte le cose che avete, riconoscetele e diciamo smettete di lottare. E allora diciamo Toro, quello che dovete imparare a fare nella vita è imparare a godere, se non l'avete fatto fino adesso, godere di quello che avete, scusate, godere di quello che avete. Se non l'avete capito fino a mo, lo capirete quest'anno. È il momento di valorizzare quello che avete, perché è puro oro, e se voi valorizzate quello che avete, quello vi frutterà tantissime cose. Quindi siete il segno più fortunato in assoluto per quanto riguarda Giove, ma state piazzati bene proprio, diciamo, in questo anno, in questo periodo. Quindi l'unica cosa che non potete proprio fare è lamentarvi, ok? Allora, dopo il Toro, andiamo su sequenza, no? Così almeno stiamo più... Ok, allora, praticamente, vado dall'Ariete e poi... Vado con l'Ariete. Allora, dal Toro passo all'Ariete per poi andare ai Gemelli, per farvi capire un pochino come funziona, ok? Allora... Nel Toro abbiamo adesso la congiunzione dal 16, quindi non è che chiunque domani del Toro si sveglia e c'ha sto pianeta che là gli fa l'inchino e gli dispensa la fortuna, non è che funziona così. Allora, due sei modalità di Giove: o sono fortunato, lo ricevo bene, quindi incappo la cosa giusta al momento giusto, oppure se lo ricevo in modo negativo me la sento calla, traduzione, vedo tutto positivo, non vedo le cose negative e quindi diciamo prendo, diciamo sopravvaluto la mia personalità. Ogni tanto succede, cioè abbiamo l'ego, ogni tanto queste cose le fa. Allora, parlando dell'Ariete, che è il segno precedente che l'ha preso, che ancora in questi giorni sta godendo, e sono quelle che ci possono testimoniare quello che è successo nell'ultimo anno, no? Chi c'ha l'ascendente Ariete e chi c'ha l'Ariete, in questo ultimo anno sono successe delle cose di grandissima espansione, ok? Quindi ho delle problematiche, mi sono diventate più grandi, oppure a un certo punto ho avuto un immane successo. Io ho parlato con varie Ariete, soprattutto perché diciamo che mi sopportano solo l'Ariete, tutti gli altri ce ne potremmo parlare ogni tanto, però diciamo che interruzioni e comincia, no, di cose, cioè, soprattutto con l'Ariete è stato un momento di grandissima espansione, quindi gli Ariete hanno fatto un salto verso un qualche cosa che per loro è un bisogno incredibile, il riconoscimento della loro personalità. Quindi l'Ariete ha bisogno, diciamo, di dimostrare alla vita chi sono. Prima di tutto lo devono dimostrare a se stessi e quindi all'inizio lo cercano all'esterno. Allora, per chi è dell'Ariete sta finendo questo ciclo di grande fortuna. Per quanto riguarda questo segno, Giove non è mai stato fermo, ha fatto alti e bassi, e soprattutto questo Giove, scusatemi entrate troppo, questo Giove diciamo non ha avuto aspetti favorevoli con gli altri pianeti. Ora, quando Giove fa l'ingresso in realtà si troverà in opposizione a Plutone e in quadratura a Marte, quindi vediamo che all'inizio questo pianeta non ci aiuterà, e attenzione appunto a questo nostro voler andare avanti, perché troveremo delle opposizioni. Noi non dobbiamo abbandonare la nostra credenza, dobbiamo continuare ad andare verso la nostra strada. Quindi l'Ariete ha già cominciato a fare questo percorso di crescita ed espansione. Ora praticamente che cosa sta facendo? Che cosa farà nel prossimo anno chi ha l'Ariete e ascendente Ariete? Si tratta del pianeta che sta nella seconda casa, la casa che parla di nutrimento, dei sordi e di quello che è valore. Quindi gli Ariete cercheranno di portare avanti, porteranno avanti i loro progetti che hanno visto dei risultati proprio in questi anni. Quindi abbiamo visto degli Ariete salire, no? Di fama, verso il lavoro e quello che stavano facendo, non solo il lavoro, perché Giove è a 360 gradi. E quindi dopo aver avuto questo grandissimo successo, ok, no, questa talmente tante cose, perché Giove ne porta tante di cose, allora l'Ariete dice ok, adesso io porterò avanti quello che per me vale, non quello che vuole la gente, ok? Quindi dare valore a quello in cui credo io. E soprattutto l'Ariete, dopo averci avuto tutto il suo successo, ha guadagnato i soldi, ok? E quindi a un certo punto dice vabbè, ma io questi soldi che ho guadagnato, dove, che ce faccio? Quindi ci sarà questa tendenza a cercare di andare a posizionare bene sti soldi. Mo, in che modo che in un altro, ognuno ha la sua visione di vita, non voglio entrare in merito, però questi soldi devono fruttare in qualche modo, il frutto del mio lavoro deve essere investito in qualche modo. Quindi vedremo degli Arieti che dopo aver azzardato, dopo aver fatto delle cose con grande soddisfazione, investono i soldi da qualche parte che sono comunque interessanti. Ora andiamo a vedere invece quelli che sono i gemelli, o vogliamo andare verso i pesci? Gemelli, andremo a seguito, ora andremo, certo, ci sta, ci sta. Allora aspetta, cambiamo segno. Allora andiamo ai gemelli. Quindi il Toro sarà vissuto i doni dal cielo, e mo i doni mi arrivano dal come mi muovo, mi possono arrivare fortune, però attenzione Toro a non sentirvela troppo calda, che a volte comunque si fa una figuraccia. L'Ariete ha guadagnato un sacco di soldi grazie alla sua generalità, il suo impegno, il suo periodo, ha sorriso anche quando non voleva perché doveva farlo, e quindi diciamo è stato premato. I gemelli praticamente sono proprio, escono diciamo dal momento in cui c'è stato un sestile, quindi un aspetto interessante da parte del pianeta Giove. I gemelli erano aiutati da questo Giove, no? Che li ha fatti, infatti tant'è vero che i gemelli vengono da questo dire sì a tutto e a tutti senza nessun filtro. Ora il discorso è, per i gemelli l'espansione è venuta dal settore delle amicizie, quindi per quanto riguarda il contesto politico e sociale i gemelli si sono trovati sostenuti, ok? Allora ci sono, i gemelli si sono trovati sostenuti se l'hanno ricevuto in aspetto positivo, quindi ho trovato le persone che effettivamente la pensano come me e abbiamo avviato dei progetti, oppure ci sono dei gemelli che l'hanno ricevuto in aspetto negativo, queste persone non la pensano più esattamente come la pensavo io, quindi possiamo cambiare strada perché ho una vocazione diversa dagli amici precedenti. Il discorso è che adesso con questo Mercurio in Toro i gemelli si troveranno il pianeta nella dodicesima casa. Allora, dodicesima casa è una casa immateriale, è la casa, allora lui è un amico, oltre alle rose c'ha tutto quello che ci serve e è raccomandato da stronza, ok? Quindi no, parlavamo comunque dei filtri di sigaretta, cartine, queste cose qua, no, perché mostro la registrerà, poi lo pubblico, no, no, bisogna specificarsi, invece lui è uno dei quartieri come a noi, quindi lo volevo dire, oh guarda vieni stasera, e è avvenuto, quindi insomma è proprio qua, è più residente di noi. Allora aspettate, ci abbiamo sopra, grazie, dai, così dal silenzio rigoroso, cioè parlare tanto, al silenzio, grazie. Quindi praticamente i gemelli, settore amicizia, settore del sociale, è stato un grande ampliamento. Adesso Giove si mette sta famosa dodicesima casa, la casa del servizio dell'altro. Allora praticamente è una casa che non è materiale, è difficile da interpretare, è la casa di Nettuno, ok? Quindi non abbiamo dei riferimenti proprio. Il discorso è che quando c'hai Giove in dodicesima, la fortuna a un certo punto decade dal cielo, nel senso che se hai seminato bene le cose ti arrivano, tu non devi fare niente. A un certo punto, a me mi è successo con Giove in dodicesima, che l'agenzia delle entrate, no? Poi io ho tutto un problema di residenza, comunque l'agenzia delle entrate mi ha mandato sto foglio, se no prende sto foglio e mi hanno ridato i soldi. È incredibile, è incredibile, avevo pagato di più e mi hanno ridato i soldi. Ecco, Giove in dodicesima casa ti ridà quello che è giusto dare, quindi per chi ha l'ascendente gemelli e chi ha per il sole in gemelli, settore amicizie, sociale, politico, grande fortuna, se no l'universo, se sei stata brava, che parole, no, in base a come hai seminato, perché se posso in sì, come se, perché non bisogna essere sempre bravi, manco per niente. Grazie, favolosa, grazie Laura. Ci sta tutta, la mettiamo qua e praticamente questo è il settore da dove arriva. Allora, gemelli, i gemelli sono il segno miscredente dello zodiaco, non crede a niente e a nessuno, quindi io gli dico sta cosa, ma che sta di questa, sta fuori, no, è effettivamente così. Allora chiedo ai gemelli di aprire un attimino la mente, perché siete più versatili dello zodiaco, voi vi inventate i draghi, ok, vi inventate cose che non esistono e volete farle credere agli altri. Sappiate che effettivamente ogni tanto aprire la mente non fa male, ok, soprattutto è importante credere a qualcosa, poi se ci crediamo solo noi è uguale, l'importante è crederci, ok, questo è fondamentale. Quindi gemelli, preparatevi al fatto che sarà un anno in cui, se avete seminato bene, raccoglierete bene, se non avete seminato non succede niente di grave, però ci potete avere la chiamata alla spiritualità, a un certo punto vi rendete conto che c'è qualche cosa di più. Oddio, non lo so i gemelli come la possono prendere. Sa. Considerate che dei gemelli, padre Pio era dei gemelli, si è inventato le stigmati, eh? Per farvi capire. Cioè, no, bisogna. Ok? Quindi, da non crederci a inventarsi certe cose, faccio i sordi. Grazie. Oddio, non è che vi ho lanciato un'idea strana? Vabbè, in caso se ne parliamo in privato. Potremmo lavorarci sopra. Allora, dopo i gemelli, a sto punto farei il cancro, no? Il segno del cancro. Perché pure il cancro e la vergine, no? È dispregiativo, il segno del cancro è un'altra roba. Ciao Mario. Allora, il segno del cancro. Ho sentito... Avete sentito la musica in sottofondo? Allora, il segno del cancro. già stai attento a quella che dici. Allora, per quanto riguarda il segno del cancro, la prima cosa da dire importante è che se l'è trovato in quadratura, quindi finisce un transito che è stato veramente difficile. Per il cancro e ascendente cancro, questo Giove si trovava in decima casa. Quindi quando si trova in decima casa, se lo ricevo positivamente, io espando la mia carriera, sono, diciamo, orientata a far a diventare qualcuno e a far vedere quanto sono brava a livello lavorativo di realizzazione, non è per forza lavorativo, io ho questa creazione, vi faccio vedere quanto sono brava. Però è una sfida, perché comunque c'è sempre una quadratura. Quando i pianeti stanno in decima è sempre una sfida, non è che, perché c'è sempre dietro questa quadratura, che è un aspetto in cui dici attenzione a come ti muovi con le autorità. Quindi ci sono dei cancro che se la possono essere sentita galla, e quindi che ne so, hanno deciso di fare questo spettacolo, no? Magari oggi io decidevo di andare a un teatro con 1000 posti e magari mi andava male, ok? Di sopravvalutare le mie cose e a quel punto capire che effettivamente me la sono sentita troppo calda e devo ridimensionare. Se invece ho lavorato bene e effettivamente sono riuscita a mostrare questa cosa, gli ascendenti cancro e i cancro hanno visto espandere la propria, diciamo, realizzazione. Questa casa, che non parliamo di realizzazione perché molto spesso viene vista come la casa dell'autonomia e a volte la casa della carriera. Si può sentire la casa della carriera. Chiamiamola casa dell'autonomia. Come voglio essere autonoma? Però è io miro a quello nella vita, ok? Quindi quando io miro a quello vado verso quella direzione. Quindi diciamo che ci sono dei cancro che si sono trovati ostacolati dalle autorità, dai superiori, da chi gli voleva di come volevano fare, che il cancro comunque vorrebbe stare a casa sul divano comodo e creare le sue cose, ok? Ma di certo non è che vuole diventare capo del capo. Vai a di Elon Musk che è del cancro. Allora, Elon Musk è del cancro, il cancro non è tutta tutta sumiltà. Il cancro, come il leone, ha bisogno, lo dovete capire, di una posizione abbastanza importante nella vita. Dovete brillare più del sole e dai, siete, c'è un po' questa competitività. Allora, se va andata bene nella decima casa, ci sarà ancora, diciamo, è da lì che però attenzione, perché potete conoscere delle persone importanti in questo periodo. Poi passerà in undicesima casa, ok? Quindi dal settore autonomia, attenzione a come vi ponete con le autorità, potete però voi diventare un'autorità e se avete lavorato bene essere riconosciuti, ammazza quanto sei stata brava, allora ti è beccate sta cosa, te becchi sta cosa e poi lavori di più, non è così bello comunque, quindi insomma come te muovi, la vita è sempre una sola. Comunque in ogni caso ci possono essere state per il cancro alcune grandissime soddisfazioni a livello professionale o di riconoscimento da parte delle persone che stanno al di sopra, oppure di oh ma guarda mannaggia mi dispiace non faceva proprio la strada per me, vado a fare il santone in spiaggia, e quindi adesso quello che si apre è il settore delle amicizie. Cancro, apritevi a tutto ciò che è la collaborazione all'esterno con le altre persone, perché ci saranno nell'ambiente delle amicizie, quindi voi uscite, venite da stronza, incontrate un'amica che poi parla con quell'altra amica che fatalità c'è a quel posto che voi cercate, che volevate fare. Il discorso è che più aprite, cancro e ascendente cancro, ampliate il settore delle amicizie, più vi arriveranno queste fortune. È il momento della collaborazione con le altre persone, quindi un divano condiviso, e penso che vi faccia piacere, quindi è un momento molto interessante, meno ostilità e più, cioè proprio adesso comunque c'è un sestile, quindi le energie scorrono facile, non è più una sfida, io devo dimostrare qualcosa, io sto lì, incontro una persona e parlando mi escono delle nuove cose, viaggeremo insieme, faremo un lavoro, incominceremo una relazione, un sacco di belle cose. Il cancro sta veramente piazzato bene in questo periodo, anche il cancro come il toro sono quelli belli più messi bene in questo periodo dell'anno. Quindi dai, a questo punto continuiamo questa cosa, andiamo nel segno del leone, no? Ci state leoni ascendenti, leoni? Qui è una sfida aperta, il cancro... Ah! Ma sai se è il sole in prima o un dodicesima, ragazzi, sono cose base. Vabbè, sono basi proprio. Allora... Leone segno governato, allora cambiamo. Dai, a Leone tocca mettergli una cosa più calda. Ok, è un segno di fuoco. Allora, il cancro è governato dalla luna, quindi finto umile, e Leone non so umile manco per niente, è governato dal sole. Ok, diciamo che sono segni che in questa vita scelgono di raggiungere delle cose importanti. Mi dispiace per voi, noi stiamo più tranquilli, l'avete scelto voi, prima di tutto l'avete scelto voi, non pensate che l'ha scelto qualcun altro. In ogni caso, il leone esce da un bel trigono di Giove nella nona casa. Allora, quindi finisce questo transito favorevole dove c'è stato un cambio mentalità, non la penso più come prima, viaggio, ho incontrato sta persona straniera, mi piace, ho incontrato una persona con una credenza diversa. Allora, praticamente il leone può aver incontrato da persona buddista. È l'offio, però diciamo che la nona casa è il settore che ti porta tutta la conoscenza che viene da fuori, ok? Quindi diciamo che dove c'è la persona diversa, ecco, quindi un buddista non gli arriva un buddista, al buddista gli arriva il taoista, quello, no? Quello selettivo. Mi arriva la persona diversa, quindi per il leone è stato un anno abbastanza importante grazie a questo Giove. Diciamo che questo Giove per il leone è stato un'ancora di salvezza, perché non è che possiamo definire proprio l'anno del leone. Ora che cosa succede? Dopo aver cambiato vocazione, dopo aver cambiato visione, dopo aver viaggiato, dopo aver deciso che non la penso più come la pensavo prima, sto Giove si piazza in decima casa. Allora, leone è molto importante perché sta decima casa è quella che lascia il cancro, no? Quindi è la realizzazione e l'autonomia. Allora, il leone ci tiene a essere riconosciuto. E allora, in questi giorni, diciamo, ci sono ancora problematiche, però, leone, considerate che i pianeti vi hanno messo un po' in sordina, mi dispiace dirvelo, nel senso vi hanno messo dietro semplicemente per prepararvi a un'estate che veramente sarà interessante. Quindi, questo Giove, come entra in Toro, ok, formerà un aspetto di quadratura, ma il discorso è, avete avuto tutto questo momento di visione, di cambiamento, adesso vi state proiettando fuori, quindi vi state facendo avanti, diciamolo, ok? Dopo aver fatto tutta una serie di cose, siccome l'estate è altamente calda per questo leone, c'è questo Giove che sarà nella decima casa, quindi attenzione proprio perché comunque si può arrivare a questo successo a cui tanto desiderate, ok? Ora precisamente dovremmo andare a vedere i gradi, però in ogni caso dopo aver viaggiato, dopo aver studiato, dopo aver rivisto tutta una serie di piani, di aver aperto la mente, di essermi confrontato con la qualunque, adesso voglio andare nella mia strada e voglio sentirmi riconosciuto. Quindi per il, allora attenzione, abbiamo detto una quadratura, una sfida, quindi leone, se voi fate gli arroganti, so tutto io e te capisci un cazzo, scusatemi, è uscita, scusate, non si dice, se dice ogni tanto, certo, giusto per capisse, allora lì vi rendete conto che questa prosopopea non è che fa proprio al caso vostro. Invece, se effettivamente avete lavorato bene, quindi allora, lavorare bene che vuol dire? Che per il leone non è cercare riconoscimento a quanto so figo, perché il leone che non è centrato, quello che cerca è riconoscimento degli altri, invece il leone centrato sa chi è e non gliene frega niente di quello che pensano gli altri. Quindi se voi siete centrati su voi stessi, allora vi aspetta un momento da piodio, parlando del fatto che comunque leone verrà travolto dalle prime pagine dei giornali, quindi attenzione se vi fate la tresca in zona, attenzione se andate con quelle delle case basse, attenzione se, no? Ok, cioè per farvi un esempio, a Conte gli hanno dato una pizza in faccia, ecco, no? È del leone, se rendevi conto, attenzione a come vi muovete, però dipende sempre da noi. Il discorso è che il leone avrà un'estate altamente di fuoco con un Giove in decima, quindi qualsiasi cosa fate, regà, verrà resa pubblica, pure la scoreggia della mattina a quell'ora sbagliata, ok? Quindi mi raccomando, lo so che non è una cosa da leone la scoreggia, lo sapevo, ve l'ho detto apposta così un po' per schifarvi, no, sai. Ma certo, però non lo dicano, però loro la fanno profumata, ok? Ci metto il vaporizzatore, capito? Quella cosa lì, no? Lo mettono a ritmo, ecco, loro aspettano quel momento giusto. Allora, leone, andiamo verso la Vergine. Allora, mi avevo detto, leone, riconoscimento, dai, mi raccomando a non fare il passo più lungo della gamba, cercate di valutare effettivamente quali sono i passi giusti, se li valutate bene avrete un grandissimo riconoscimento e ci tenete, perché questo è il vostro percorso di vita, non è un discorso di ego. La Vergine, allora la Vergine in realtà è ascendente vergine, si è vissuta, diciamo, un Giove nel precedente aspetto che non gli dava più di tanto, era posizionato nell'ottava casa. L'ottava casa è la casa del sesso, se è arrivato sesso, a me non mi è arrivato, poteva arrivare a sol, ma non c'ho l'ascendente Ariete. Ok? Allora il discorso è ascendente vergine. Possono essere arrivati dei soldi dall'esterno, comunque sapete che ancora siete lì, che se ci avete bisogno di qualche soldo non fate i poveri. Oh, mi servono sti soldi, è capace che ve li danno. Avete dei incassi da ritirare, questo è il momento giusto per farlo. Ora, da un aspetto neutro, da dove arrivano ste chiamate da questo universo che si sa che ci vanno di, passa in trigono. Allora, la Vergine si sta vivendo un Saturno in opposizione, quindi già siamo Vergini, no? Siamo Saturno in opposizione, ma è una gioia, ce lo sapemo. Oh, Vergine, ci sta arrivando una gioia. Saremo in grado di gestircela? Giove in trigono per un anno intero. Quindi, da una parte abbiamo Saturno in opposizione che dice seleziona le persone, perché delle persone ne possono arrivare tante, quindi non accontentiamoci più, diciamo, di quello che ci arriva, ma andiamo a selezionare meglio e soprattutto smettiamo di fare Madre Teresa di Calcutta, perché questo è il momento in cui possono arrivare delle grandi soddisfazioni, è il momento di cambiare mentalità, è il momento di incontrare persone che la pensano in modo diverso, è il momento dei viaggi e durante i viaggi ci potremmo espandere sia a livello di conoscenza che a livello di amicizie. Quindi Vergine, finalmente c'è una buona notizia, in realtà in un mese che è propizio. No, allora, non è, innanzitutto questo mese è propizio, poi nel mese si spostano tutti questi pianeti. Facciamo che sì, è vero, abbiamo un Saturno in opposizione che ti dice ok, se io non sto con una persona, questa persona non mi deve opprime, perché se mi opprime se ne va a quel paese, io sto con le persone che mi fanno stare bene, quindi ci aiuterà finalmente, diciamo, visto che magari la Vergine ti serve una mano, tutta una serie di cose, è molto disponibile, negli ultimi anni ha capito che bisogna essere disponibile con le persone giuste e quindi finalmente, dopo che abbiamo imparato la selezione con Saturno, che ancora c'è, quindi prima che vediamo dei sì, c'è tutta una serie di cose, però Giove finalmente ci porta un ritrovato entusiasmo, quindi sì ai viaggi, sì a cambiare la nostra mentalità, è un momento d'oro, ci abbiamo delle gioie anche noi. E adesso arriviamo alla Bilancia. Allora, ma Bilancia, fatevi vedere! Esatto, aspetta! No, e invece no! Andiamo a parlare della Bilancia e ascendente Bilancia. Allora, per quanto la Bilancia, per quanto riguarda la Bilancia, il segno dell'Ariete si trova sempre in opposizione. Ok, quindi quando parliamo di un Giove in opposizione, due possono essere le cose, però o mi frequento con qualcuno di un certo spessore, qualcuno di un certo livello, qualche guida, qualche insegnante, qualcuno tosto, qualcuno di un certo tipo, e l'unione viene riconosciuta. Allora, quando Giove passa in settima, sono due le possibilità. Giove passa in settima e finalmente la mia unione viene riconosciuta alla luce del sole e quindi mi sposo oppure faccio vedere, oh mamma, papà, se c'è ancora c'avemo, se gli vogliamo far conoscere o farle vedere alle persone, io sto con questa persona. Ok, Giove, diciamo, è legata anche alla legalità, quindi attenzione, perché prima ne parlavo prima anche con una persona, Giove in aspetto positivo ci aiuta a risolvere le questioni legali, Giove in aspetto negativo ci dice è meglio che queste questioni legali non le fai perché ti dice male. Allora, quindi per la Bilancia ci possono essere state delle diatribe con alcune persone, delle cause, delle cose in cui io devo far valere la mia giustizia. ok? Oppure ci sono delle bilance che ok, adesso finalmente faccio vedere con chi sto. Sono queste due le possibilità, o divorzio oppure è proprio un discorso di legalità la settima casa, ok? Quindi è o me sposo, faccio, scusate, non so, però è per dire, rendo visibile questa relazione, rendo l'unione, la consolido st'unione, la legalizzo st'unione. Esatto, oppure effettivamente esatto, ma guarda, ma tu non c'hai l'ascendente, che ascendente c'hai? Devi sentire l'ascendente gemello, l'abbiamo già detto, e vai che mutta arrivano i doni dal cielo. Se qualche amica non ti ha presentato l'amicizia giusta, ti arriva il guru dal cielo. Attenzione guru. Comunque bilancia come segno, se ne va via questo aspetto di opposizione. Non c'è più questa cosa di non riesco a misurare le mie forze, non riesco a capire effettivamente come muovermi, o sopravvaluto o sottovaluto, ok? Finisce tutta sta roba per andare verso un... ma rilasso un attimo e aspetto quello che l'universo mi manda. Quindi per l'ascendente bilancio abbiamo un'ottava casa, allora già in ottava casa può arrivare, abbiamo detto... può portare sti soldi che arrivano dall'esterno, ok? Bilancia. Bilancia. Stiamo benissimo. Ascendente bilancia. Se hai bisogno di chiedere dei soldi, è il momento giusto, ok? Perché i pianeti stanno in ottavo. Hai bisogno di un prestito? Stavo da banca, dopo da tua madre, dopo da amico tuo, è il momento di chiedere i soldi. Se aspettare dei soldi. Ascendente bilancia. Bilancia e ascendente bilancia, dai che Giove d'aiuta per la bilancia, ritrovato ottimismo, quindi al momento giusto chiedi i soldi che ti danno far mercatino, ok? Comunque è una buona notizia perché finalmente si riescono a vedere meglio le proprie risorse, ok? Quindi chi so io invece che magari sopravvalutarmi, è un grande momento per la bilancia perché si libera da situazioni che non riusciva a capire. Quindi dopo la bilancia che segno c'è? Per vedesse che segno c'è dopo la bilancia? Come? Lo scorpione, no? Scorpioni ascendanti, scorpioni, lo state? Tutti qua, eccolo, eccoci qua. Ah, già che siete usciti di casa, grazie, perché lo scorpione praticamente c'è un mercurio, Urano, non si è venuto pure a sentire Giove. Allora, consideriamo che lo scorpione più difficoltà ci sono meglio è nella vita, eh? Quindi, secondo me gli piace, fammi sentire che c'ho un problema così l'affronterò. Allora, diciamo che per quanto riguarda lo scorpione, c'è stato un aspetto di Giove in Ariete che non è che gli ha dato chissà quale beneficio, è andato a lavorare su una casa sesta, ossia nell'ultimo anno lo scorpione si è trovato, diciamo, a sistemare quella che era la routine quotidiana, ok? Quindi un tutti i giorni trovo il mio tesoro e soprattutto ha trovato soddisfazione nel lavoro, quindi non erano tutti sfruttatori nella vita, ma lo scorpione nell'ultimo anno si è trovato a fare dei lavori che in realtà gli sono comunque piaciuti, si sono liberati due posti sulla panca. Per chi ha problemi dei reni, ci sono, io penso a tutto nel frattempo, guardo. Comunque, in ogni caso, per lo scorpione abbiamo visto migliorare una quotidianità, soprattutto una cosa importante che è successa allo scorpione è stato un miglioramento della salute, ok? Ci può essere questo. Per chi la ricevo male come scorpione, invece tu dici, ah, sto bene, invece poi ti accorgi che il fegato si è messo male come al mio. Quindi attenzione, se non l'avete ancora fatto forse delle analisi semplici del sangue, non vorrei invogliare nessuno verso la medicina, ma prevenire è meglio che curare in ogni caso. Fatto sta che lo scorpione dalla questo fare quotidiano si trova Giove in opposizione. Allora, Giove in opposizione, allora, per chi mi conosce lo sa, lo Scorpione mo la vita facile, bella e comoda, non gli è mai interessata, non ce l'ha mai avuta, non sa manco com'è. Quindi se dovesse trovare troppo a suo agio, secondo me praticamente comincerebbe a diventare verde, gli succedono delle cose strane. Ora, quindi io ci tengo a spiegare, allora Giove si troverà in opposizione. Allora, ascendenti Scorpioni, quando si trova Giove in opposizione, abbiamo detto, se sposiamo, legalizziamo l'unione, famo una società. Quindi attenzione, perché in questo momento gli Scorpioni si stanno lanciando verso nuove relazioni, hanno bisogno di ampliare il loro parco di esperienze, e con un Giove in settima casa possono diventare pure belle relazioni. Quindi diciamo che è il momento in cui o ci uniamo o ci scorniamo. Secondo me lo Scorpione è contento allo stesso modo, ok? Cioè, nel senso, con un'unione con uno Scorpione, pensando che sia pacifica, che bello, io vado qui, tu vai lì, che bello, ci vediamo domani, è tutto a posto, non è che funziona troppo, ok? C'è bisogno un po' più di tensione, ok? Dove vai? Sto andando, ma forse non so, tutta una serie di cose. Però diciamo che questo, l'opposizione di Giove, non è mai da sottovalutare, è sempre piacevole, proprio perché o mi scontro con le altre persone e quindi vedo chi sono, perché considerate che lo Scorpione ogni volta che si trova davanti a una difficoltà, a un pericolo, non lo fa per voi, lo fa per se stesso, perché dopo che ha superato il pericolo capisce chi è, diventa sempre più grande, sempre migliore, quindi gli piace la sfida. Attenzione, perché ci troveremo con uno Scorpione che avrà voglia di mettersi in relazione con le altre persone. Scontro o incontro per lo Scorpione sarà sempre un successo. Per voi questo non lo posso dire, però lo ritengo un transito comunque interessante, proprio perché se mi scontro magari ci sono delle cose che non vanno bene, allora grazie agli altri lo Scorpione può capire come meglio abbindolare le altre persone. Vabbè, mo l'ho buttata lì, spero che sia arrivata come deve essere arrivata. Non prenderei mai male, cioè io ho visto amiche fidanzate con un Giove, soprattutto ascendente Scorpione, cioè ascendente Scorpione, sappiamo che Giove sta in settima casa, quindi o vai da a far divorzio perché quello non ti dà alimenti, bla bla bla, oppure incontri una persona interessante, coi sordi e che c'ha pure una bella posizione. Ecco, allora dai. Dopo lo Scorpione, che segno c'è? Sagittario! Esatto, Sagittario. Sagittario. E ascendente Sagittario. Allora, per farla un po' più cara, il Sole ci dice che aspetto fa il pianeta con il Sole, però dovete considerare che Giove non è che va a toccare solo il vostro Sole, va a toccare l'ascendente, la Luna, Mercurio, Venere, Giove, Saturno, no, tutti i pianeti. Quindi la cosa più importante da capire è che voi, in che settore è? Quindi in base al settore che è, no? Se so Scorpione, abbiamo detto, il settore è le relazioni, quindi può essere in bene, me metto con qualcuno figo e lo faccio vedere agli altri, oppure sto a litigare con qualcuno, arriviamo ai ferri corti e chiamo l'avvocato, ok? Cioè, oppure proprio, no, posso fare delle società con qualcuno, oppure devo venire a casa e quelli mi hanno lasciato la casa disintegrata. Ecco, queste sono le cose che possono succedere. Sagittario. Allora, per quanto riguarda il Sagittario, stiamo parlando, dove state Sagittario? Stiamo parlando del vostro pianeta, ok? Quindi è una cosa molto importante, proprio perché quando si tratta del pianeta guida, se lo troviamo in un aspetto disarmonico, effettivamente è come muoversi con la barca e non sapere dove andare. E l'altro giorno mi è venuto proprio per noia di rivedere la Pirati dei Caraibi 2, là, come cazzo. Comunque la cosa molto interessante di questo film era che sto Johnny Depp, che è uno svalvolatore sia nel vero che nel falso, c'ha sta bussola che non puntava nel punto giusto, perché doveva puntare dove andava il cuore. Questo è il messaggio del Sagittario, cioè proprio la bussola, bisogna puntare la bussola anteriore. Quindi siccome c'è stato un momento, un anno di smarrimento per questo segno, ci sono state veramente delle complicanze per quanto riguarda le altre persone, proprio perché il Sagittario, essendo governato da Giove, due sono le funzioni. Allora, contrario il Sagittario che non crede a niente, a nessuno, miscredente totale che ti bestemmia davanti, oppure troviamo il Sagittario completamente fanatico delle sue credenze, crede a sta cosa, ti vuole convertire. Papa Francesco comunque del Sagittario, un convertire in modo bonario oltretutto, capito? Lo fa per voi, ok? Allora, allora diciamo che il Sagittario è proprio quel segno che ci ridà l'ottimismo, quindi è un transito molto importante. Il discorso è che vi siete beccati un bel trigono in quinta casa, quindi per il Sagittario è stato un momento in cui Giove ha già dato i suoi grandi frutti. Il discorso è che il Sagittario però si è trovato di fronte gli ostacoli delle altre persone, mentre Giove vi faceva sentire più sicuri di voi, cioè proprio questo è secondo me il caso in cui Giove può aver funzionato nel modo in cui io credo in questa cosa, ci credo totalmente e vado in giro a convincere le altre persone. Però il Sagittario negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, 8-9 mesi, si è trovato con persone che invece la pensavano in un modo completamente diverso, quindi c'è stato uno scontro su questa convinzione. Allora Sagittario, se voi ci credete totalmente non dovete convertire proprio nessuno, se invece voi non siete convinti delle vostre credenze diventate dei fanatici e dopo un po' stuccate, perché ognuno crede a quello che gli pare, ok? Allora diciamo per esempio il Toro è un pastafariano secondo me, ecco questo che volevo dire all'inizio, no? Il Toro non è che sta a credere a chissà che cosa se non alla pasta, alla lasagna, a queste cose qua, cioè parliamo di cose chiare. Sagittario riesce a credere delle cose superiori che noi manco ci arriviamo, ok? Perché il Sagittario sta oltre, quindi a volte il Sagittario ci dice delle cose che noi non siamo in grado di accogliere perché loro hanno una visione troppo ampliata, ma non ve la dovete sentire troppo galla, capito? Perché è un po' il ritorno al futuro, no? Tu vai lì, al ritorno al futuro, oppure aspetta, c'era pure sta cosa, questa Lucifer, c'è sta serie che io non ho visto su Netflix, me ne hanno parlato, Lucifer, no? Allora quello che va di io sono diavolo e nessuno gli crede, non so se avete vista, comunque il discorso è che nessuno gli crede perché quello che gli dice la verità, non tutti siamo pronti a affrontare le cose quando lo dite voi, insomma, cioè dovete credere voi, non dovete convincere nessuno, allora tutto sarà bellissimo. Dopo che vi siete innamorati, dopo che avete ampliato tutta una serie di cose, dopo che vi siete divertiti, è il momento in cui Giove si mette in sesta casa. Tutto questo divertimento, tutti questi progetti nuovi che avete lanciato, allora i Sagittario hanno lasciato alcune sicurezze, si sono buttati in altri progetti, questi progetti hanno dato dei risultati che sono interessanti e adesso dopo che è stata portata avanti questa progettualità, quindi ci sono Sagittari e ascendenti Sagittari che fanno figlianze anche, perché un Giove in quinta figlia o ha grande soddisfazione da quello che è la propria, quello che sono i propri progetti, ok, oppure me innamoro del guru della situazione. Questo Giove poi si sposterà nella sesta casa dopo aver progettato e mandato avanti queste cose. Sagittario, ti tocca organizzare e lavorare, dai, c'è sempre questa parte qua, e quindi diciamo c'è questo miglioramento della salute e questo che bello, il progetto si è solidificato e adesso lo porta avanti passo dopo passo, quindi è un grande momento dove il pianeta non vi supporta più ma nemmeno vi rompe le scatole, dice dopo tutti questi grandi progetti che voi avete comunque una grande progettualità, un grande ingegno, questo c'è da dirlo, adesso bisogna portarli in un modo concreto nella vita quotidiana. Quindi vediamo che c'è un'organizzazione nella vita quotidiana, ogni giorno c'è un qualche cosa che vi insegna qualcosa, appunto una lezione, è il discorso che se ci sono state problematiche di salute adesso si va verso un miglioramento. Se invece lo ricevete in un aspetto che non è proprio salutare, diciamo, la routine quotidiana ogni giorno c'è un ostacolo, attenzione, perché se il fegato vi dice qualcosa, quindi dopo che ho fumato e bevuto mi alzo con le occhiaie per terra e devo bere per forza, magari un'attenzione alla salute non farebbe bene, bisogna stare attenti al fegato, proprio perché Giove è legato a questo organo e la sesta casa è governata dalla salute. Quindi poi abbiamo, che abbiamo? Capricorno. Capricorno. Allora, abbiamo un Capricorno. Allora, vi faccio delle domande, così io prendo un attimo, perché di solito faccio che segno volete. Allora, c'è, abbiamo detto che segno c'è? Capricorno. Capricorno, da che segno è governato? Saturno. Allora, Sagittario non esiste nessun problema, te dice sempre di sì e te da buca, no? È governato da Giove, non c'è nessuna colpa in questo, la sorgia ci libera da qualsiasi colpa. Capricorno è governato da Saturno, te dice di sì per dovere, non perché vuole, questo è il... Allora, Capricorno si toglie finalmente un Saturno in quadratura. Capricorno ascendente Capricorno. Saturno in quadratura, allora scusate, Giove in quadratura. Allora, per il Capricorno che nasce con il pensiero triste e malinconico nella vita, andrà sempre tutto male, tanto è tutta una merda, me devo solo far culo perché sennò non funziona niente, diciamo. Ci ha avuto tutta una serie, perché proprio nasce col pessimismo cosmico. Oh, regà, cioè, poi bisogna andare a vedere ogni Capricorno dove ci avranno sto Giove, perché per chi c'ha il sole in Capricorno governato da Saturno, la vita è una fatica. Allora, devo dire che poi la vita è una fatica, hanno imparato a fare un sacco di cose, cioè hanno avuto questo Saturno in quadratura in quarta casa. Allora, scusate, Giove in quarta casa. Allora, quando Giove sta in quarta casa, in realtà mi dice casa la devo ampliare, casa la devo ristrutturare, casa mi impegna casa, casa soprattutto la casa paterna, tutto ciò che deriva dalla famiglia. Quando parliamo di quarta casa, si parla di pace, ok? O di quella linea là. Lo so, siamo sulla legge degli opposti, questo è, purtroppo funziona in questo modo. Poi se poi hanno reinventato 3 miliardi di arte di astrologia, l'importante è che funziona. Fatto sta che comunque il Capricorno è stato lì a pensare a come ampliare tutta una serie di robe, e quindi delle fortune gli sono arrivate pure dalla famiglia. Allora, Giove in quarta casa e mi compro casa. Giove in quarta casa, la famiglia mi dà qualche cosa per comprarmi casa, la famiglia mi dà una casa da ampliare, ci faccio il lavoro, perché poi il Capricorno non è che c'ha la casa per rilassarsi, cioè c'è lavoro e poi c'ho il reparto divano, PlayStation, televisione 80 pollici, perché poi siamo, poi un giorno avrà tutta la parete, tutta la parete, per, magari per vedere chissà che cosa, però in ogni caso c'è un discorso casa. Ora è stato un po' problematico, però, perché tutto sto voler ampliare casa era perché non eravate pienamente soddisfatti dell'ambiente in cui vivevate, eh? Che è successo? Che mostro Giove vi si mette in quinta casa. Capricorno si mette in trigono non vuol dire terzetto, no, trigono è un aspetto fortunato, benevolo, quindi da tutto questo pessimismo cosmico il Capricorno ci avrà una botta d'ottimismo. Ah, ah, che figo, me innamoro. Allora, Capricorno, me innamoro, se già non sono innamorato, ok, perché comunque per Capricorno so solo, non mi vuole bene nessuno, però voglio stare sempre insieme all'altri, cioè non vi pensate, proprio il segno della famiglia più assoluto di tutti, sembra quello che sta chiuso lì sull'ermo che male da solo con la vena, nemmeno cotta, cotta senza fuoco, mi sono devota alla vena io. Quindi vabbè, insomma, Capricorno dall'eremita del cavolo a quello che fa la famiglia più stabile, quella del mulino bianco, gli piacerebbe, poi lo sapevo che non funziona, non lo dimo, soprattutto dello zucchero a vela. Allora, fatto è che dalla quarta casa in quadratura, quinta casa in trigono, è il momento di godere tutte le grandi soddisfazioni che ci avete, nuovi progetti, se c'avete figli ve danno soddisfazione, non c'avete figli, attenzione che fate figli, insomma, lo so, o fate figli o fate progetti, questa a seconda di quello che uno vuole, io, cioè, proprio la quinta casa è progetti, prolificazione, hobby, tempo libero, grande soddisfazione, viaggi, no, proprio progetti di un certo livello, volendo anche con l'estero, pure il cane si è fomentato, sarà del Capricorno. Dai, partivo per Capricorno, insomma, la gioia Capricorno, come lo Scorpione, come la Vergine, c'ha paura della gioia? Ti toccherà un po' di gioia e di soddisfazione, meno lamentele, i pianeti stanno messi tutti bene. Quindi godete di questo momento. Allora, Acquario. Allora, dopo il Capricorno, lo sapete che c'è l'Acquario? Allora, il Capricorno è governato da Saturno, lo sappiamo benissimo. E mi stavo già a sbagliare. E l'Acquario? Da Urano. Prima che fosse scoperto Urano, l'Acquario era sempre governato da Saturno. Questo è importante da sapere quando con una buona Acquario. Allora, l'Acquario si vive delle prigioni interiori, quindi attenzione, liberatevi da queste prigioni, perché in questo momento l'Acquario si trova un po' in crisi a livello di comunicazione con le altre persone, non riesce a esprimersi bene, gli altri non riescono a capire quello che gli dicono. Allora, praticamente l'Acquario è ascendente Acquario, si è trovato con un Giove che ha ampliato tutto il settore delle amicizie, delle comunicazioni. L'Acquario, che praticamente o è nerd e sta solo, diciamo, sulla rete e non riesce a parlare con gli umani, oppure sta in campagna con gli umani e non riesce a connettersi alla rete. Non so se avete visto quanti Acquario no vax ci sono, quando comunque invece, no, senza una vax, invece ci sono tanti, diciamo, i vaccini sono proprio una cosa acquariana, cioè per dirvi l'antipodi delle due cose, siamo sempre nell'ambiente acquario. Allora, l'Acquario si è trovato bene, ha ampliato il suo cerchio di amicizie, ha ampliato la sua mente, ha cambiato tutta una serie di cose e adesso l'Acquario si trova qui a casa. Quindi l'Acquario è vero che è un segno che ha bisogno di grande libertà, però l'Acquario quando trova le persone giuste invece gli piace creare proprio quella situazione che dura nel tempo, quindi non vediamolo solo come una persona che non si vuole legare, perché io non sono d'accordo. In questo momento l'Acquario si troverà un Giove in quarta casa, quindi è proprio lì che andiamo a lavorare, è nel settore della famiglia, della casa, che andrà a trovare le sue grandi soddisfazioni. Quindi ricevuto bene, amplio sta casa, sti figli crescono, non vedi quanto è figo mio figlio, è capace di usare l'iPad quando mia moglie ancora non è capace di usare delle cose. Scusate questa degenerazione che ho fatto, però comunque l'Acquario è tra l'antiquato e tutto ciò che è nuovo, no? Perché l'Acquario integrato, quello risoluto, è quello che va verso la tecnologia nuova. L'Acquario che invece è bloccato è quello che non va verso il cambiamento, rimane imprigionato in quel passato che invece non lo fa stare bene. Allora è un momento di ampliare la famiglia, è un momento di ampliare la casa. Mi sembra che mi mancano solo i pesci, mi sembra un grande traguardo per me, lo dico per me, grazie. Grazie. Allora, arriviamo al segno dei pesci. Allora, innanzitutto ci tengo a specificare che i pesci in ogni caso vengono da anni molto interessanti, soprattutto questo dove abbiamo un Saturno in congiunzione, quindi abbiamo dei pesci che stanno mettendo delle solide radici da qualche parte, perché hanno deciso che in questo momento bisogna strutturarsi. Abbiamo avuto una Giove in seconda, quindi comunque delle situazioni in cui i pesci hanno deciso di investire in situazioni dove c'era veramente qualche cosa di valido, e stanno continuando ad andare verso questa direzione. Quindi dopo aver valorizzato i propri talenti, dopo aver deciso, che ne so, mi compro casa, comunque metto le radici in un posto, faccio questa cosa perché ha un vero valore nella mia vita, ecco che i pesci si trovano ad ampliare il cerchio delle amicizie. Quindi troveremo dei pesci di nuovo volenterosi, diciamo, ad aprirsi al mondo. Non ci sarà più questo sentimento mi sento aliena ed emarginata, non mi capisce nessuno. Invece ci saranno tante persone che verranno a parlare la vostra lingua. Quindi diciamo è un momento di grande soddisfazione. L'aramaico ritornerà in voga, ok? Quindi è un momento in cui ci saranno di nuovo dei viaggi, di nuovo dei spostamenti, ma tutto è fatto proprio al fine di arricchimento personale. E attenzione, perché l'amica dell'amica ti presenta la persona giusta. Mi sembra di aver finito tutti i segni. Che bello, sempre un gran momento quando finisco. Pure quando comincio. Mi ha ricordato una cosa. Vabbè, allora ci troviamo in mezzo ai tavoli. Io stacco. Avete qualche domanda veramente importante da fare in pubblico? Volete un microfono? Le cose personali, sei trattate ego. E quindi quando volete dei consulti personali, lei ha rotto il bicchiere, perfetto. No, è il cane che è di aprile però. È il cane di aprile, quindi ha vinto Giove. Dica, dica, Martina. No, abbiamo parlato molto di soldi in questo... Giove parla. Ma Giove in Toro parla di soldi e di sicurezza economica. Sai che noi comunque abbiamo tanta cosa nell'amore. Quindi vorremmo, allora, vorremmo tipo quei 3-4 segni fortunati nell'amore. Quali sono? Però Giove non ci parla della fortuna in amore. Ok, Giove in Toro ci parla proprio della sicurezza dei soldi. Di questo parla. Ora, Giove in quinta casa, come abbiamo detto, Giove in quinta casa per il Capricorno mi parla d'amore. Allora, diciamo, Giove in Toro non mi parla minimamente d'amore, mi parla di piacere, semmai, di soddisfare i miei bisogni, di godere, ma non parla di amore, parla più di interesse. Questo è da capire, no? Che Giove in Ariete e mi butto verso un qualche cosa che me, no? Che mi eccita in qualsiasi ambito. Un Giove in Toro, in realtà il discorso è che in questo momento i pianeti ci stanno portando verso una sicurezza. Cioè, siamo noi che non avendo una sicurezza cerchiamo una sicurezza, questo ci tengo a specificare. Quindi Giove in Toro ci parla che noi vogliamo semplicemente godere della vita e godere delle situazioni, proprio a livello materiale che a livello veramente sentimentale. Ora tu mi fai una domanda da bilancia, perché la bilancia ci mette sempre il cuore. Bilancia e Toro sono governati dallo stesso pianeta, ok? Venere. Però Venere in Toro lo vediamo come Venere è a livello di quantificare le cose. Nella bilancia invece lo vediamo proprio nelle unioni con gli altri. Quindi innanzitutto la tua domanda è proprio inerente alla tua personalità, no? Dice, ma noi parliamo dei sentimenti, parliamo di unioni. Giove in Toro cerca le unioni che ci danno qualcosa di concreto, ok? Quindi se io cerco una cosa stabile sia a livello sentimentale che lavorativo, vado lì, non vado più con la prima cosa che mi capita. Giove in Toro, se fai i conti, ok, cioè proprio principalmente questo, io vado dove mi conviene. Per quello che ricordo sta bene. Esatto, allora, diciamo tutti i segni di terra che effettivamente non ci accontentiamo di queste candide parole a volte, perché bisogna sempre vedere il tema. Invece Giove in Toro, purtroppo a livello diciamo globale, questo Giove in Toro va insieme a Urano in Toro, stiamo andando in un cambiamento collettivo, stiamo trasformando la nostra società, ok? Quindi dobbiamo distruggere i vecchi poteri per andare a quelli nuovi, ma non abbiamo ancora queste chiavi per andare. Avete visto che i giovani fanno, diciamo, tutte queste cose sul clima? Perché è questo quello che sta andando l'energia di questi pianeti. Ci dobbiamo occupare del pianeta Terra, del clima, dell'ecologia, della nuova economia che è diversa da quella che abbiamo avuto. Quindi se continueremo a avere questa economia di interessi eccetera, non andremo da nessuna parte. Nel 2024 vedremo trasformare finalmente questa economia. Mi sembra basta. Ci vediamo sotto. Ciao.